Vedo sguardi un po' persi alle 3 del mattino in un bar. C'è chi beve e saluta, chi sputa veleno in un bar. Alle 3 del mattino. Dammi retta adesso, avrei bisogno soltanto di te. Per continuare a parlare, farti capire soltanto che alle 3 del mattino. E dammi un attimo e ti dirò chi sei. Se chiami un attimo verrò ovunque vuoi. E dammi un attimo, con te io ci starei. Se chiami alle 3 del mattino. Ma la cosa importante da eretta è avere un caffè, per potersi ancora fare un po' male pensando a te.